Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera da Rock Wave, buonasera Maurizio Calzavara, Michele Tosoni in regia. Roberto Baldi, che come sempre ha manovrato le telecamere, che è presente, non è ancora andato via. E buonasera al gruppo di Verona. Vi pronunciate? Come si pronuncia? Bene, Claim Blue, è giusto così? Sì, sì. Benissimo, venite da Verona, due ragazze e tre ragazzi. Uno è arrivato da poco tempo, perché la tromba, esatto, non era presente precedentemente. Esatto. È una new entry, diciamo precisamente. Così. Da dove, come si è formata l'idea di questa band, che io la definisco molto vicina al folk, al Brit folk, se mi è consentito il termine. Qualcuno ha parlato di Belle Sebastian, qualcuno ha parlato di 10,000 Maniacs, che voi non conoscete, che era una band americana degli anni 80, ma soprattutto Belle Sebastian, quelli li conoscete. Sì, sì. Ecco, li conoscete. Com'è nata l'idea, partita da te, che sei Carlotta, vero? Sì, esatto. Che faceva la basket, cioè giravi per le strade di Verona assieme alla tua amica Federica e suonavate. Non vi hanno ancora arrestato, però no, per adesso per adesso no, però l'idea, mai, però l'idea è partita da quello, vero? Come è partita sta idea? Bella, secondo me. Beh, in realtà è iniziata, appunto, noi ci siamo conosciute al liceo e avevamo iniziato con un gruppo, cioè volevamo suonare un po' di canzoni anche di De André, di cover, eccetera. E poi in realtà quando ci siamo trovate io le ho fatto sentire una canzone mia, la prima che avevo scritto, così un po' quasi per caso. Io l'ho apprezzata molto. E lei, insomma, si è subito unita. Abbiamo iniziato ad arrangiare poi tutte le altre canzoni. L'idea di fare un duo poi si è sviluppata. È arrivato il batterista. Sì, è esatto. Arrivato il chitarrista. Chitarra, come c'è scritto? C'è la definizione della tua chitarra che si chiama? No, è una chitarra elettrica. No, ma non è la prova. Però c'è scritto elettronica. È elettronica? Come mai c'è scritto elettronica? Perché è più divertente. Ah, è più divertente. Non era... Significato, doveva avere un... Il significato, in realtà, è che la chitarra è elettrica. Elettrica, ogni caso. Era un modo divertente. Fare anche pubblicità alla Fender ormai. Ah, una Jaguar, marco. Sì. Una chitarra elettrica. Era stasera che, per essere meno banali, di versione elettrica, sì, leggermente più sì, dolce, tutto più, disteso, più distesa, sì. Però è una chitarra elettrica e c'è anche la batteria, mezza batteria stasera, chiaramente è la base della batteria pop, è la base della batteria, generale, i piatti, il Charleston e il Roland, esattamente, il Charleston. Poi abbiamo una viola piccola stavolta, ma una viola, cioè il tuo strumento, sì, che è posata là. Come mai una viola? Siccome la viola mi ricorda sempre i gruppi dark, non so se sei d'accordo. I gruppi dark? Sì, no, perché è un suono non oscuro ma malinconico. Cioè il bello del suo suono, esatto, che è molto più dolce rispetto al violino. Ma malinconico, sì. un po' tenebroso, nel senso positivo del anche termine. Anche più intimista. Più intimista, hai detto una cosa. Meglio del violino. Meglio del violino, esatto, hai ragione. Meno invadente. E poi abbiamo anche le tastiere. C'è una tastiera con la tromba, un po' di tutto. Sì, fai un po' di tutto, testa. Sì, di tutto un po'. Allora, una cosa l'abbiamo fatto, ci presentiamo i nomi, però. Io li ho detti velocemente, vai. Allora. Io sono Carlotta. Io Federica. Io Paolo Verzini. Tobia. E Arrigo. Ecco, quindi batteria, chitarra elettronica, tromba e tastiera, esatto. Viola e la voce. Voce, la bocca e chitarra. E la voce e chitarra, benissimo. Sì. Quindi l'inizio è stato questo. Abbiamo cominciato a tessere la tela. La tela, esatto, è venuta fuori bene, secondo me. Ripeto, io il disco l'ho sentito molto e mi è piaciuto particolarmente. Soprattutto il pezzo iniziale, che era molto accattivante, molto friabile, dolce, delicato, senza non essere pesante. Non è pesante. No. E si consuma velocemente, ma non si consuma velocemente perché sono le solite cose. Si consuma velocemente perché ha una certa qualità, secondo me. Com'è nata l'idea del pezzo iniziale? Com'è nata? Beh, diciamo che comunque un banco di prova è stato appunto questo fatto di girare un po' per le vie di Verona. È questo basket al femminile. Non esatto, quindi... No, è bello il basket al femminile, solito sono al maschile, ma è giusto che ci sia anche il basket. Sì, ma poi la cosa bella soprattutto è che appunto abbiamo capito quali canzoni avevano quali effetti, diciamo, quali attiravano più persone, quali magari, vedi... che le persone ascoltavano con piacevolezza, eccetera. O anche i bambini, ad esempio, nelle piazze, quali si divertivano di più, quali meno, insomma. Erano i nostri migliori fan. Ecco, esatto, è bello così. Vuol dire che la musica prende immediatamente. Se i bambini amano le vostre sonorità, che non sono sonorità facili però, sembrano facili ma non sono facili, però vuol dire che prende immediatamente. Apriamo sta finestra, cominciamo a sentire queste sonorità. Allora. Ok. Cominciamo con il primo pezzo. Volete annunciarlo voi, chiaramente, il titolo? Il titolo è Forse anche sotto. Benissimo. Blu Radio Veneto Rock. Ok, bellissima, ripeto, questo non era un pezzo, un singolo. Quando ho visto, è arrivato questo album, il vostro album, che l'etichetta ci ha mandato, un'etichetta un po' particolare che è situata in montagna, un piccolo paese dei Monti Lessini, è così? Sì. Come si chiama questo paese? Vagimal, è una frazione di Sant'Anna d'Alfaedo. Ecco, esatto. Sul sito c'era scritto, si parlava di montagne, si parlava di formaggio, si parlava di altri, di altri alimenti che si mangiano in montagna, e c'è questa casa discografica, questa etichetta, interessante, molto interessante. Sì, beh, no, esatto, è un'etichetta che parte dalla semplicità, vuole essere semplice, molto semplice. E niente, infatti il nostro lavoro è stato molto... Sì, dimmi. Aspetta. E no, questa etichetta insomma è abbastanza semplice, parte dalla montagna e ha come... No, è molto semplice, ecco. E il nostro lavoro gli è piaciuto, insomma, ed è stato accolto. Ok, benissimo, perfetto. E quindi partita dalla montagna. Il pezzo che ha iniziato a aprire la finestra è un pezzo accattivante, molto divertente, anche semplice come costruzione. Come l'avete ideato? Beh, allora, in Forse Anche Sotto, la canzone forse... Sì, esatto, il singolo. Beh, nasce... Io ho detto il singolo, singolo sì, così. È un bel candidato, un pezzo che prende immediatamente, che piace anche ai bambini, come hai detto Carlotta. Sì. Carlotta. Anche Nubi Cuculia piace molto ai bambini. Anche quello, sì. Però più, sì. Ma è nato... Ma la cosa bella è appunto che le nostre canzoni nascono molto... Cioè, ognuno ci mette quello... Diciamo, io porto il pezzo... E poi ognuno mette dentro il pezzo le proprie sensazioni e il proprio contributo, e la canzone cambia completamente. Quindi diciamo che è una canzone partita in un modo più quasi malinconico, diciamo, nel senso che comunque appunto le parole sono abbastanza non allegrissime, sì, insomma. Non sono allegrissime, però la musica non è allegrissima, però non è neanche malinconica al massimo. No, perché appunto poi la melodia, poi il ritmo anche, sì, e tutto ci ha portato a svilupparlo. C'è da dire che infatti all'inizio le canzoni nascevano okay. Nascevano per un duo, quindi una chitarra e una viola. Sì. Poi quando siamo subentrati Tobia la chitarra e io la batteria, abbiamo pensato di arrangiarle, quindi di pensarle proprio non più come un duetto, ma come un quartetto, o comunque come una band. Ecco, ho capito, come una band vera e propria. E quindi arrangiarle pensando proprio alla canzone. Ah, ok, perfetto. Ok, vai. Ecco, quindi io per esempio parlo anche come Tobia, abbiamo ricevuto la prima registrazione proprio di questi brani con la viola e la chitarra, e poi proprio a me mi aveva colpito molto le melodie e la voce particolare, e poi lo strumento che è la viola, e quindi io ho deciso appunto di entrare a far parte di questo progetto. E tu suoni a batteria, ripetiamolo, di dare un contributo, anche a dare ancora corpo, dare ancora più possibilità a questa canzone. Come si combina la viola e la batteria? Bene. Volevo sapere questo. Si combina bene la viola. Si combina bene. No, nel senso che anche quando arrangiamo i pezzi è interessante cercare di trovare appunto delle combinazioni fra strumenti che magari normalmente uno non penserebbe che andrebbero così d'accordo. Certo. E quindi anche magari in altri pezzi, per esempio in Sistri, che è la seconda canzone del disco, abbiamo studiato proprio delle cose degli insieme, incastri. Viola, batteria. Ah, ho capito. È interessante infatti come io ho cercato di trasmettere la ritmica alla viola, e invece la viola di trasmettere un po' di melodia alla batteria, quindi c'è questo legame di suonare la viola in modo un po' più ritmico, giocando proprio, dando un contributo proprio alla ritmica, alla base della canzone per dare movimento, e dall'altra parte alleggerire un po' la batteria, dare un po' di suoni un po' più aperti, certo, più, sì, ho capito, più leggeri proprio. Bene, adesso suoniamo ancora una volta, apriamo ancora questa finestra e dopo cominciamo dal vivo. Siete quasi pronti, mi pare. Sì. Siete già pronti. Il secondo pezzo si chiama Sistri. Che significato ha, Carlotta? In realtà non ha proprio un significato, nel senso che è più un suono, diciamo. Io l'ho scritto meno entusiasmante, meno rispetto al precedente, meno entusiasmante, volutamente meno entusiasmante. Sempre pop però, secondo me, non so se sei d'accordo. Sì, sicuramente più rock. È quello. Più rock, il pezzo più rock è dell'album. Più rock, più sostenuto, possiamo dire questo? Sì, assolutamente. Ok, adesso stiamo assieme Sistri dai Claim, come si pronuncia la vera pronuncia? Claim Blue? Claim Blue, sì. Perfetto, ok. Sì. Blu Radio Veneto Rock. Certi senti sale. L'onda del rock. Diretta rockway.altervista.org, Michele Tosoni in regia, Roberto Bardi che se n'è andato però che ha curato le telecamere, la band di Verona. È importante questo, siete voi che siete i protagonisti del programma. Sistri, abbiamo detto che è un pezzo meno entusiasmante dal punto di vista di melodico, ma più rockettaro, il pezzo più rockettaro dell'album. Visto che c'è il cantante con la chitarra elettronica, ti avvicini al microfono, perché è il più rockettaro dell'album? Beh, perché è l'unico pezzo in cui c'è proprio un vero riff sia di chitarra. Ma che Carlotta e Federica sono rock? Sì, possono essere rock. Sì, assolutamente sì. Assolutamente. Però è l'unica canzone che inizia proprio con un attacco diretto, esatto, di chitarra, esatto, e batteria abbastanza che vanno l'idea dritte. È stata quella allora. Ma in realtà come è nata Sistri musicalmente parlando? Ma tutte le, bisogna dire che tutte queste canzoni, almeno le prime, le nostre prime canzoni nascono in versione appunto cioè voce, chitarra acustica, viola. Poi dopo sono state riarrangiate, quindi hanno... A proposito di riarrangiamento, mi pare che sia stato un arrangiamento di un personaggio che abita a Los Angeles o abita in America. No, quello è stato il mastering. Come mai avete scelto, cioè, è stata scelta una persona di questo calibro? Beh, è stata una... Una casualità? Ma più che casualità, un'occasione. Semplicemente l'occasione è dataci da Luca Tacconi che ci ha registrato l'album. Diciamo chi l'ha registrato, Luca Tacconi. Sì, lo ringraziamo. Che sempre queste etichette che abbiamo parlato. Caro amico... Perfetto. Ormai che cioè, lui ha registrato l'album, è stato missato in America praticamente. È stato masterizzato in America. Da comunque questo appunto Carl Saff che si occupa di tantissimi dischi, di etichette come anche la Sub Pop. Volevo arrivare a quello. Grandi etichette della storia degli ultimi anni della musica indipendente. Che importanza ha avuto questo abbellimento, se mi può chiamare così. Sì, sì, beh, è un abbellimento. Insomma, ha reso il suono dell'album. Era il suono vostro questo? Quello che volevamo, insomma. Siete soddisfatti? Sì. Come primo esperimento, come prima esperienza, è stato un buon lavoro, insomma, visto anche le premesse, le difficoltà anche iniziali per mantenere anche un suono. Sì, perché è una band emergente, che difficoltà per arrivare a incidere un album, anche se l'etichetta è piccola, si dice indie come si è chiamata, però difficoltà ci sono. Io posso rispondere, poi rispondere te, ma visto che anche quello che suona la tromba vuole rispondere qualcosa più tardi. No, non vuole rispondere. No, riuscire a mantenere il suono originale, il suono autentico. Poi chiaramente nella registrazione, nel mastering, a volte si lima troppo per certi gruppi e a volte rimane troppo grezzo il suono. Quindi se vogliamo, la difficoltà principale è proprio utilizzare bene la strumentazione di registrazione. Sì, questo è importante, sì. Ecco, questo è assolutamente... Ed è anche per questo che abbiamo comunque deciso di registrare in analogico. E soprattutto, avete una cosa interessante, avete deciso di registrare in analogico. Cioè, una cosa... Non dico antica, però non è una cosa moderna. Erano comunque le stesse strumentazioni usate dai Beatles. Ci dobbiamo alzare tutti in piedi. Praticamente, visto che i Beatles adesso hanno ripubblicato tutti gli album. Chiaramente. Vabbè, quindi sempre avanti. Sono sempre avanti. Dopo 4 anni i Beatles sono sempre troppo avanti. Esatto, dopo 4 anni di ricerca hanno tirato fuori il cofanetto stereo e il cofanetto mono. Economicamente è un po' pesante, però sono i Beatles. Sono i Beatles, ok. Quindi analogico, questo suono analogico, il suono che più caldo, dà qualcosa di diverso, non è il suono tecnico, freddo di adesso, il suono analogico. Sì. Perché il suono analogico si addice alla vostra sonorità, cosa dite? Sì, direi proprio precisamente. Sono perfettamente d'accordo con voi. Benissimo. Siamo pronti? Siamo pronti per cominciare adesso questa cavalcata che ci guiderà fino alla mezzanotte con questo gruppo di Verona. Cosa cominciamo allora? Dunque, iniziamo appunto, siccome ce l'ha così ben presentato e ce l'ha così piacevolmente... Ci hai così. Scusa. Non sono tanto vecchio, sono certo. Vecchio, vetusto sì, però insomma, non eccessivamente vecchio. Michele dice, sì, sei tanto vecchio. Lo stesso. Ok, dimmi. Allora, per scusarmi, direi che in tuo onore inizieremo con Forse Anche Sotto. Perfetto, che è il singolo meraviglioso che apriva il vostro disco. Grazie. Blu Radio Veneto Rock. Ok. Bisogna aspettare il suo canale. No, vai. Vai. 1, 2, 3, 4. Silenti le ore ho conosciuto, ho passato. Ridenti le albe ho respirato, ho salutato. E la tua ombra al mio fianco ha camminato. E la tua assenza come un sogno ho ricordato. Sotto voglio te, forse, forse, forse sì. Anche se sotto, sotto voglio te. Sotto, sotto voglio te. Na na na na na na na na na na na. Sotto, sotto. Taglienti parole ti ho rivolto e ti han dissolto. Cocenti le lacrime ti ho tolto, ma non di molto. E la tua ombra al mio fianco ha camminato. E la tua assenza come un sogno ho ricordato. Forse, forse, forse sì. Un sito che c'è scritto Nerds Attack, un sito ha scritto e forse anche sotto è bellissima. Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo. Beh, ripeto, è piaciuta moltissimo. Grazie. E ha aperto proprio il disco bene. Insomma, mi è piaciuta bene. Scusate, ho detto troppo. E l'avete fatta quasi uguale, secondo me, all'album. C'è mancato quasi. Quasi uguale. Come la fate in live? È un po' più energica live. Sì. Cioè proprio il ritornello. Ci mette la chitarra elettrica che stride un poco. Ma comunque la mia chitarra elettrica in questo gruppo non è mai invadente. È giusta, una posizione non defilata, ma una posizione giusta, non mai invadente. Sì, cioè cerco sempre di fare arpeggi e semmai qualche pennata più ritmica che tenere un accordo sì. Pesante, insomma. Dimmi. E poi diciamo che dal vivo c'è anche il contributo dell'organo elettrico che esatto. Pompa molto la canzone, diciamo. Che contributo hai? Oltre alla tromba. Esatto, è quello. Come di mai suonare... hai avuto l'idea anche di portare l'organo elettrico? Beh, a me piace sinceramente anche lo strumento come complemento, visto che la tromba è uno strumento melodico che certo. fa una voce sola. Quella di Miles Davis non era tanto melodica, però era un po' più... Quella di Miles Davis non era proprio melodica. Sì. Però insomma, comunque... era la tromba, proprio, sì, la sì, tipa certo. Ok, dimmi. Ecco, in Forse anche sotto faccio la parte del basso, sostanzialmente. Certo. Il basso non che non abbiamo. Non l'avete. Come mai non avete un basso? Per una pura questione di coincidenza, nel senso che non abbiamo mai trovato un bassista. E beh, poi bisogna anche dire che all'inizio abbiamo iniziato volontariamente solamente in quattro, certo. senza poi basso. Anche a tromba, poi dopo un po', sì esatto, abbiamo sentito il bisogno di avere il ritmo. Non sentite il bisogno di avere un basso, no? Beh, adesso con questa tastiera molto, molto ritmica. Sì. Ok, benissimo, benissimo. Quindi avete... quadrato il cerchio. Sì, adesso ci sentiamo abbastanza esatto. a posto. Perfetto, quindi questo pezzo aveva iniziato, perché un EP, avevate altri pezzi pronti o un EP perché sei pezzi e basta? No, avevamo anche altri... L'etichetta ha detto non di più. L'etichetta è quello il motivo. C'è sempre il discorso economico. C'è sempre il discorso economico. Avete inciso, avete fatto tutto voi o economicamente? Cioè l'etichetta vi dà solo... dato sostegno. Il sostegno praticamente sì. È difficile, lo so. Per ora sì, è molto difficile. È difficile trovare dei posti a suonare. Che molto non, difficile. Non Ligabue o Vasco o gli U2? No, è molto difficile. È molto difficile, vero? Però pian piano. Ma Verona è una città, nella provincia c'è molto movimento. Ripeto, dicevo a microfoni spenti, molti gruppi sono venuti qua a suonare di Verona. C'è un bel movimento. Ci suona veramente tantissima gente. Tanta però. Gente che suona, che ha voglia di emergere. Chiaramente c'è il problema delle cover. Liga ha fatto ben 10 date all'arena suonando la sua musica con l'orchestra sinfonica. Ma le cover è un problema grosso. Cioè, le cover riducono. Non so come dire, riducono la possibilità di eseguire qualcosa di proprio. Insomma. Perché tra una birra e un panino la gente non vuole sentire, non vuole ascoltare delle novità. Sì, poi dipende insomma anche più da che tipo di target, che tipo di locali si vuole raggiungere. Noi adesso a Verona insomma siamo riusciti a... Siete riusciti a fare qualcosa, insomma. Sì, in questi 2 anni che suoniamo, adesso le prossime date che facciamo sono in dei... Dimmi le poste, dopo le ripetiamo, visto se te le ricordi. Noi adesso il 17 suoneremo all'Emporio Malkovich, che è un locale insomma veramente buono, da rispettare Verona. A Verona, perché porta tutto un certo cantautorato, certo indipendente, anche certo. internazionale. Bene. E quindi insomma siamo molto, ci abbiamo già suonato, siamo contentissimi. E poi suoniamo a Interzona, che è anche un altro locale famoso, molto famoso di Verona, esatto. a fine mese il 23. E quindi si muove qualcosa. Sì. Però non è mai facile, è difficile dirlo. Perché anche musicalmente la vostra sonorità non è facile, non è la solita sonorità di un gruppo pop. È un pop un po' allargato, secondo me. Non so se siete d'accordo. L'intento era anche di allargare il discorso, un suono che fosse un attimo diverso, ma ecco, non fosse neanche così impossibile da raggiungere. Sì, perché parte dal folk, ma si sviluppa in altre tematiche, Carlotta. Non è propriamente folk. Il folk è solo iniziale, poi con la viola il folk si allarga. Viola, batteria, tastiera, tromba. Quindi abbiamo anche chitarra elettrica, elettronica. Va bene, quella chitarra là. Chitarra elettronica. Chitarra elettronica. Mi è piaciuto subito, ma chitarra elettronica. Dai, interessante. Dagli effetti anche. Quindi il discorso si deve allargare, è difficile però si deve tentare. Cioè, ci proviamo noi. Però diciamo che siamo fortunati perché abbiamo anche la possibilità di suonare sia in elettrico, cioè sia amplificati che in acustico. Come le suoni quella viola amplificata? Normalmente l'amplifico nei concerti, però appunto grazie agli strumenti che suoniamo e anche un po' alla struttura delle canzoni riusciamo ad adattarci a tutti e due gli ambiti. Quindi questa è una forza in realtà. Sì, anche per scegliere, per trovare i posti dove suonare, ti dà la possibilità, si apre un po' il ventaglio, insomma. Certo. Benissimo, adesso sentiamo un pezzo da quel CD, da 2 CD che abbiamo portato. Ti ricordi il primo pezzo, la traccia numero 4, di quel disco è? Allora, il primo pezzo è dei Dirty Projector. Ne diciamo qualcosina, chi sono i Dirty Projector? Beh, allora è questo gruppo americano... che insomma c'è da un po' di anni e solo adesso è diventato un gruppo a tutti gli effetti, perché nasce come progetto solista. È caldo, no? Fa sempre caldo. Dimmi. Nasce come progetto solista del cantante, autore di tutti i pezzi, sì. che è, insomma, un po' questo, è un personaggio che ha queste strane idee musicali, nel senso che fa un po' di tutto, ecco. E infatti il pezzo che mettiamo adesso è un pezzo scritto per una delle coriste cantanti del gruppo, che ascoltato così senza nessuna informazione potrebbe sembrare veramente un pezzo pop quasi vicino alle sonorità di Beyoncé, però in realtà è semplicemente uno dei tantissimi lati di questo gruppo che io reputo forse, insieme, non so, agli Animal Collective, uno dei... altro gruppo un po' particolare. Sì, uno dei grandi gruppi usciti in questi ultimi anni. Benissimo, ok. Blu Radio Veneto Rock. Oh, Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rockway, l'onda del rock. Ok, ci siamo. Abbiamo sentito questo pezzo. Mentre il pezzo andava, che era molto lungo, un finale quasi da chiesa con l'organo. Sì. Psichedelico, potremmo dire psichedelico. Poi sì. Anni 60, fine anni 60, un po' Bjork, molto Bjork. Sì, è appunto, secondo me è appunto significativo perché è proprio un pezzo che, anche se è quasi R&B in alcuni momenti, pop, appunto la cantante però si avvicina alcuni momenti a Bjork. Poi c'è questo finale di Archi che tra l'altro introduceva una canzone folk, chitarra, voce, sempre di questo personaggio qua, e insomma. Ma come l'hai scoperto questo personaggio? Io pensavo a Bonnie Prince Billy, che anche quello è un personaggio un po' strano, un po' americano anche lui, che ha 5, 6, 7, 8 nomi, visioni musicali. Beh, comunque questi Dirty Projector sono decisamente famosi. Cioè, questo disco che è uscito da poco è stato amatissimo dalla critica. Sei innamorato immediatamente di questo pezzo? Beh, io mi sono innamorato del disco decisamente. Questo personaggio. Sì, veramente lo consiglio a tutti quelli che insomma vogliono trovare un gruppo. Perché secondo te in America c'è questa corrente di indie, queste corrente di novità? Tu hai citato gli Animal Collective prima, cioè queste novità musicali, questo cercare di allontanarsi dalla solita strada per poi ripercorrere e poi tornare sì, in realtà alla stessa poi è sempre strada. La stessa storia, esattamente, è quella la difficoltà e la bravura di questi gruppi, cioè che riescono a percorrere strade che insomma pop, della storia pop, Beatles, Beach Boys, certo. Eppure soprattutto Beach Boys, hai detto una cosa giusta, eppure ritornano sempre, cioè riescono a modernizzarli, perché comunque gli Animal Collective per esempio sono palesemente influenzati dai Beach Boys, certo. Però ci mettono tutte queste basi elettroniche quasi techno, melodico, insomma positivo, parlando di musica gentile, buona, e riescono a fare queste cose grandiose, secondo me. E i King Blue cosa fanno di grandioso stasera? Una new entry praticamente, abbiamo detto, no? Una new entry, c'è, cioè una cosa non presente nell'EP di 6 pezzi, esatto. Che un onore per Rockwave, insomma, presentate per noi. E come mai questo pezzo fuori dalle EP? Perché c'erano altri pezzi. È il titolo quello là del pezzo? Ai Nerd. Nerd è un gruppo per quello. Non c'entra niente, è una vostra comunicazione, perfetto. Sì, come mai questo pezzo? Come mai questo pezzo fuori dell'EP? Ma perché diciamo che l'EP vorrebbe essere anche un po' un percorso. Un greatest hits vostro, posso dirlo questo? No. Cosa? Un greatest hits vostro? No, è stato appunto questo il fatto, che non è che abbiamo scelto quelle che ci piacevano di più. Ah, questo non lo sapevo, come mai? Perché è stato proprio un po' un cercare di fare un percorso con il nostro CD, cioè appunto di partire da quella più accattivante, come parlavamo prima. Ma la scaletta l'avete predisposta voi o l'ha predisposta chi vi ha dato una mano? No, l'abbiamo predisposta voi direttamente. Sì, è per questo che appunto diciamo che parte in modo più frizzante, poi appunto va sul rock per poi andare sulle sonorità più distese, riflessive, tranquille, e finire con un colpo di coda, diciamo. Un colpo di coda, un po' particolare. Un colpo di sole. Sì. Allora, questo pezzo come si sviluppa musicalmente? Fa parte sempre dell'organigramma dei 6 pezzi che abbiamo sentito nei EP, oppure è un po' diverso? No, si è un po' diverso, diciamo, è sentito da 7 minuti, oppure anche detto My Seven, o vari modi che cambia ogni volta, che viene appunto dal fatto più o meno degli accordi che sono tutti My Seven. E quindi 7 minuti perché... 7 minuti perché dura 7 minuti. Ah, no. Perfetto, no, non dura 7 minuti. Per fortuna no, siamo per fortuna no. Non c'è mica niente di male, assolutamente. Ok, adesso lo sentiamo allora. Sì. Blu Radio Veneto Rock. Sometimes it hurts so badly, I must cry out loud. I am lonely. I am yours, you are mine, you are what you are. Give back your heart.

How can you catch the sparrow? Lacey lilting lyric, losing love, love and day. Change my life, make it right, be my lady. Sì, ho deciso di cambiare. Vi siete scaldati? Questo è un pezzo storico, 1969, Clovis T. Nash, una cavalcata. E siamo pronti per fare per sentire la vostra cavalcata adesso. Abbiamo detto che facciamo un pezzo live, però inedito. Sì. Al di fuori dell'EP. Esatto. Sì. Siete pronti adesso? Prontissimi. Ok. Blu Radio Veneto Rock. Pensieri ho disegnato, sette ricordi appesi a un filo, quattro minuti ed ho capito, ho chiuso tutto e adesso vado, senza un minuto per regalo, oh oh, come una foglia senza ramo, come un cammello senza sete, e un trapezista senza rete, senza un minuto per regalo, oh oh, come una foglia senza ramo, come un archetto senza pece, come un abbaglio senza luce. Tarararatatata, tarararatatata, tarararatatata, tarararatatata. Tra una mezz'ora torno a casa, un quarto d'ora sono fusa, quattro minuti l'ho capito, ho chiuso anche con lo studio. Sette pensieri ho disegnato, sette ricordi appesi a un filo, quattro minuti ed ho capito, ho chiuso tutto e adesso vado, senza un minuto per regalo, oh oh, come una foglia senza ramo, come un cammello senza sete, un trapezista senza rete, senza un minuto per regalo, oh oh, come una foglia senza ramo, come un archetto senza pece, come un abbaglio senza luce. Senza un minuto per regalo, come una foglia senza ramo, come il mio tempo senza pace, come il mio cuore senza voce. Senza un minuto per regalo, oh oh, come una foglia senza ramo, come il mio tempo senza pace, come il mio cuore senza voce, come il mio cuore senza voce, e dai ratata, come il mio cuore senza voce. Sono le 22 e 58 minuti. Rockway, l'onda del rock. Diretta a rockway.altervista.org per sentire e vedere questa band di Verona che ha fatto un inedito assoluto, non presente nell'EP, vero? Perfetto. A proposito, il titolo, divertentissimo. Come si titola il titolo del vostro disco? Fertili? Dipende. Sì. Fertilizza frasi. Ecco appunto. Fertilizza frasi. Come mai questo... La frase deve essere fertilizzata, sicuramente. Sì, sicuramente. È un buonissimo modo per essere fertilizzata, appunto, un'insolazione. Ecco, perfetto. Ed è lì che è nata. Che è nata l'idea, il discorso. Questo era un pezzo che era rimasto nel cassetto, perché? No, non era rimasto nel cassetto, era proprio... Era un embrione, era... Sì, è perché appunto è, diciamo, il più particolare di tutti, cioè anche come arrangiamenti, come... sì, appunto... effettivamente hai detto, sì, puoi proseguire, sì, mi interessava proprio gli arrangiamenti, era un po' particolare. Sì, nel senso che appunto è nato, è l'unico che, in cui cantiamo tutti, in cui c'è anche una parte a cappella, certo. Che si sviluppa in un modo diverso da, diciamo, dagli altri. La struttura classica delle canzoni pop, insomma. Decisamente. Ecco, ho 2 minuti giusti per arrivare al gioco. Sono le 23 e un minuto, 23 e 5 secondi. Quindi il gioco di Rockway. Ah, 5 dischi da portare su un'isola deserta. C'è niente da fare, te, tu che suoni la tromba. Già. Volevo essere il primo? No, vuoi fare per primo? No, assolutamente. Facciamo le ragazze, dai, per primo. La Carlotta o la Federica? Vai Carlotta. Vado io, sì. Beh, ok, vai. Allora, in realtà è molto difficile questo gioco. 5, chiaramente è difficile. Permettermi. Date 5 input, dai, portare. Sì, 5 input. Deserta. Allora, nell'isola deserta porterei innanzitutto, soprattutto perché appunto rientra perfettamente in questa serata, sia per la radio che per appunto il nostro nome, porterei Blu di Joni Mitchell. Ecco, fermiamoci un secondo. Disco meraviglioso, Blu di Joni Mitchell. Meraviglioso, tra l'altro regalatomi dal nostro valido chitarrista elettronico. Esatto. E dalla prima traccia mi ha proprio fulminato. È un disco direi. Fantastico, Blu, sì. Di Joni Mitchell. Bellissimo. Ne ha fatti tanti, si è buttata nel jazz, però Blu rimane un disco epocale. Epocale, sì. Via. Una prima Joni Mitchell, poi la seconda. Un altro, Lou Reed, Transformer. Ecco, parliamo un momento di Bowie che l'ha prodotto allora. Ahia. No, va bene, lasciamo perdere. Però è stato Bowie che l'ha prodotto e dentro c'è un pezzo classico, l'hanno fatto tutti, l'ha fatto Patti Pravo, Walking on Wall Side. Esatto. Giardini di Kensington, lei l'ha intitolata. Pezzo straordinario, disco straordinario, perché è la rinascita musicale di Lou Reed. Lou Reed aveva un momento di crisi dopo lo scioglimento di Velvet Underground e ha trovato... E si è trasformato. E ha trovato Bowie che l'ha salvato materialmente, l'ha prodotto, le ha dato una spinta e poi è ritornato ad essere Lou Reed. È sempre stato Lou Reed, però con la crisi con i Velvet è stato un momento di abbandono musicale e poi è ritornato su, adesso un genio. È sempre stato un grandissimo musicista, però grazie a Bowie, quello sì. Certo. Secondo, number two, number three. Allora passerei a Battisti. Quale? Di Lucio? È difficile perché sono tantissimi quelli che mi piacciano, però... Con Mogol o senza Mogol? Mogol. Con Mogol. Pannella, lasciamo perdere. Pannella, sì. Va bene, ok. Sì. In realtà non mi ricordo precisamente il titolo, comunque la batteria, il contrabbasso, eccetera. Eccetera. Sì, eccetera, esatto. Eccetera. Batteria e contrabbasso, che è quella copertina dove si buttava nel fango. Sì, sì, è che quella un po' più, quasi ci sono delle sonorità quasi dance. Sì, un po' diverso. Sì, esatto. La fine della, quasi la fine del sodalizio con Mogol e con gli ultimi due dischi famosi che poi ha terminato il discorso. Quindi la batteria, il contrabbasso, eccetera, eccetera. Battisti. Poi un'altra ispirazione per me è stata Carmen Consoli. Quale di Carmen Consoli? Ti ricordi Carmen uno? Consoli, sì, mi piace molto L'Eccezione. Sì, che è un disco non, cioè abbastanza recente di Carmen Consoli, sì, qualche anno fa. Sì. Poi anche quello, l'Anfiteatro e la bambina impertinente, che è appunto quello fatto con... Canta la messa la chiamavano, no? Esatto, la cantantessa. Sì, esattamente, sì. Cioè, perché suonava nei sagrati delle chiese, faceva anche quello. E questo appunto era il disco fatto con gli arrangiamenti orchestrali, certo, eccetera, che mi è piaciuto molto. E poi recentemente quella, la cantante che mi piace di più, che sto seguendo di più, è Feist. Feist è una cantante canadese. Sì, ho capito chi è, ho capito chi è. Esatto, ha fatto solo due album, che sono Let It Die e The Reminder. E forse preferisco The Reminder. Benissimo, quindi hai concluso la cinquina praticamente. Esatto. Tocca la Federica, mi pare, sì. Tocca a me. Allora, visto che è difficile pensare i cinque album che mi piacciono di più, i cinque input, dai, facciamo così. Allora, ho pensato di fare un po' una retrospettiva storica. Bene, ok. Abbiamo tempo allora, fino alle 24, No, no, ma breve. Vabbè, però dico motivo gli album in base a... Allora, diciamo che alle medie ho iniziato il mio percorso rock con due album che magari sono banali, però fondamentali. Allora, ascoltavo Nevermind di Nirvana. Dobbiamo sollevarci tutti in piedi. E poi gli altri miei idoli delle medie erano i Sex Pistols. Ah, Nevermind, con Nevermind the Bollocks. Perfetto, esatto. Quindi, proprio da violista comunque. Sempre Nevermind. Sempre Nevermind. Visto che suonavo il violino, iniziato. Quindi Nirvana e i Sex Pistols. Esatto. Poi, vabbè, diciamo che a casa, tra i dischi dei miei genitori, ho sempre ascoltato le due raccolte blu e rossa dei Beatles. Chiaramente i Beatles. E lì dentro c'era tutto l'indispensabile, tutto, esatto, diciamo. Esattamente. E poi un quindi album vale che... per uno questo, guarda. Vale per uno. Sì, vale per uno. Vale per uno, anche se sono doppio, cioè quattro dischi vale uno solo. Okay. Poi diciamo che, vabbè, lei ha nominato Lou Reed, sì, allora io volevo nominare The Velvet Underground e Nico. Perfetto. Anche perché diciamo che dopo che ho ascoltato i Velvet Underground ho capito che anch'io con la viola volevo fare qualcosa di rock. C'era una ragazza che suonava di Velvet, esatto, no? C'era una viola anche una nei viola, Velvet. Esattamente. E quindi ho avuto questa folgorazione. E poi, vabbè, visto che studio musica classica, devo nominare almeno qualcosa di classico, allora direi una qualsiasi registrazione del Quartetto Italiano, le migliori. Perfetto, allora, quattro dischi rock e uno classico. Mi pare giusto, tocca a te adesso che adesso suoni non la tastiera e la tromba. Esatto. Vai. Beh, io devo precisare che l'entrata nei Glen Blue è stata un po' anche l'iniziazione al pop, nel senso che io ho studiato la tromba al conservatorio e l'ho quindi suonata nella mia cameretta e con la banda di paese, quindi non ho una grande cultura però, d'ascolto del pop. Te. E quindi, metterei... ma vale il Fertilizza Frasi, è il primo disco in cui facciamo effetti da casa. Ok, perfetto. Poi ci metterei un disco che ho ascoltato appunto dopo questa iniziazione in casa mia, che si chiama credo Lotus di Elisa. Sì, un bel disco di Lotus di Elisa. Elisa è una brava musicista, di Monfalcone, quindi... Sì, soprattutto la famosissima Almeno tu nell'universo. Sì, che ha rifatta, era un pezzo di esatto, Mia Martini fatta da esattamente, lei. Esattamente, la Lotus, interpretazione. Beh, Elisa è una ragazza che suona rock, anche se poi, grazie alla produzione di Caterina Caselli, il rock si è un po' allargato, però fondamentalmente aveva un gruppo rock, chiaramente. Esatto. Di Elisa. Poi un altro degli ascolti che ho fatto da poco è di un cantante che si chiama Maroon 5. Non so come e non si... è un gruppo Maroon 5. Ah sì, beh, ma ok, sì, il è vero. Cantante, sì, leader, un gruppo, tu, ho capito, come leader, ho detto, siamo d'accordo, però è un gruppo. Sono un gruppo piuttosto inglese. Ignorante. No, una no, canzone ignorante, che è un gruppo inglese, sì. Una canzone che si intitola Sunday Morning. Sì, perfetto. Mi piace molto. Poi ci metterei il CD che è praticamente la colonna sonora di un bellissimo film che mi piace molto, che è Il favoloso mondo di Amélie. Sì, le musiche molto di Jan Tiersen, la sonorità delle fisarmoniche, certo, che certo, è sostanzialmente pop, è popolare, decisamente pop, sì. Mi piace molto. Ci vanno in mezzo i concerti brandeburghesi di Bach. Ok, sono perfettamente d'accordo. Non è un ordine di importanza, è in ordine come mi vengono in mente. Io me li ricordo fatti dai Nice, però chiaramente quelli fatti da Bach è un'altra cosa, visto che sono originali. Poi fatti dai Nice, che è una riproposizione, Kate Emerson praticamente ha riposto i concerti brandeburghesi di un famoso album dei Nice, certo, del 1969, quindi si parla di molti anni fa. Esatto. Okay. Poi c'è anche Jacques Lussier, ha fatto delle interviste. Esattamente. Conosco anch'io. Perfetto. E poi okay. Te ne rimane ancora uno. E poi me ne rimane ancora uno. Beh, in casa mia ho trovato un disco, non so come si chiama, penso che sia l'ultimo di Giorgio Gaber. Mi piace molto la sua voce. È un grande, era un grande. Sì, esatto. Era un grande teatro canzone, era un grande. Esatto. Ricordiamo, dopo tanti anni lui è entrato in classifica numero uno col disco, il penultimo disco della sua carriera, però ne ha fatto un altro, poi purtroppo. Conoscete il pedone di. Sì. Troppo ridere. Tocca a te il nostro chitarrista elettronico. Allora, tra i miei dischi c'è allora il primo dei Pink Floyd, quando ancora c'era Syd Barrett, che, The Piper at the Gates of Dawn. Okay. Come mai con Syd Barrett? Per psichedelico? Perché sì, e poi perché insomma lui sapevi che non sapeva suonare, scusa la correlazione, che non sapeva suonare la chitarra Syd Barrett. Beh, insomma, cioè, probabilmente non, magari non era tecnico come era Gilmour. Tecnico, era istintivo. Esatto, era... quindi comunque secondo me è proprio uno dei grandi geni incompresi. Certo, e ha iniziato tutta la esatto, saga. Io non sono un fan dei Pink Floyd, quelli troppo, esatto, gli ultimi assolutamente no. Comunque quell'album lì, il primo, con Syd Barrett, è proprio un capitolo a parte. Certo, che... sì, Emily Plate. Cioè, esatto. Ecco, c'era lui, l'ha inventata sì, lui. Assolutamente. Okay. Poi Pet Sound dei Beach Boys. Ecco, ci fermiamo un secondo, come mai questo album che Paul McCartney ha detto noi abbiamo, ci siamo ispirati a Pet Sound dei Beach Boys per fare Sgt. Pepper? Sì, perché è proprio, cioè è proprio un capolavoro. Ho capito poco purtroppo. È un l'esempio di capolavoro, nel senso troppo di troppo avanti, forse troppo avanti, senza tempo, pieno di sfumature e di sì, di ogni cosa, insomma, la musica pop è... un po' di tutto, c'è un po' di tutto. C'è Beach, Michele, dimmi. Rolling Stone ha messo insieme a Sgt. Pepper come migliori due album rock. È vero, storia. È vero, hai perfettamente ragione. Michele ha pescato i Beach Boys. Beach Boys certo, sono fulcro di tante cose. Sì, sì, anche però il gruppo che hai citato precedentemente. Esatto. Quindi Pet Sound, disco epocale. Epocale, assolutamente. Poi After the Gold Rush di Neil Young. Un altro grande album di anche quello, di, sì, dell'owner canadese. Abbiamo citato Crosby, Stills, Nash, non c'era Young è venuto arrivato dopo, un anno dopo, anche se i litigi erano continui, ma erano quattro geni. Quattro geni. Neil Young, After the Gold Rush, però perché non Harvest secondo te? Perché Harvest secondo me è bucolico, secondo me. Ma a me piacciono molto le atmosfere bucoliche, ecco. Però After the Gold Rush si sente proprio che è poco prima di sì, iniziare a distendersi troppo. Esatto, si è disteso molto. E poi bene l'ha fatto sempre giovanissimo, quindi sì, si sente molto. Si è disteso bene con Harvest, assolutamente, dal punto di vista economico, soprattutto. Sì. Un grandissimo album. After the Gold Rush, sono perfettamente d'accordo con te. Tre o quattro ne hai detto? No, era il terzo. Poi Revolver dei Beatles. Fermiamo un secondo, adesso ne l'hanno rimasterizzato, ritornato sì, in classifica. Anche se in tutto il mondo i dischi più venduti dei Beatles adesso è Abbey Road. È quello più venduto perché in. Sì, c'è stato Michele li ha pescati subito. Perché Abbey Road è sempre stato il disco più venduto loro. E adesso che è stato rimasterizzato, è stato riproposto, Abbey Road è sempre in testa. Ma Revolver è un album epocale anche quello. Eh sì, quei assolutamente. Beatles, qual è un album non epocale? Forse l'ATB prodotto da. Forse da... l'ARB o forse. Ma. No, forse l'ATB perché era prodotto da Phil Spector. Anche se sì, non è vero. Ha avuto un po' di. Sì. Però effettivamente certe cose difficile dire. Ricordiamo che i Beatles, no, se tu volevi sentire un qualcosa dei Beatles, prendevi la batteria da una parte, la chitarra da una parte e la sentivi. Una volta era una cosa fantastica, adesso è una cosa di tutti i giorni. Una volta batteria da una parte, chitarra da una, solo i Beatles avevano quell'idea. Sì, sì, sì. I Beatles erano fantastici. Sì. Ultimo, dei Dream Nation, dei Sonic Youth. Ah, un gruppo straordinario, straordinariamente duro, ma straordinariamente innovativo. Sì, sì, che insomma mi ha, ti ha, a me mi ha proprio ti ha folgorato, fatto iniziare, insomma. No, quelli non ne abbiamo, Sonic Youth, è un po' difficile. È un po' difficile, quelli non... No, non ce l'hai, assolutamente no. Ok, tu sei il nostro batterista con batteria ridotta stasera. Sì. Ah, ti sei preso anche l'appuntino, però. Anche lui. No, perché veramente è veramente difficile questo gioco. Siete... Non è un gioco, sì, è un qualcosa per no, poter volare nell'universo solo. È vero, è vero. Ah, se ti sposti un po' più là, sì. Allora, io ho scelto. Un po' più giù, ma poi ancora? Più giù? È che c'è la batteria. Ma non ci sta. Allora parlo di qua. Va bene così? Ah, buono, okay, buono. Così allora, ti vedono, così ti vedono. Io ho scelto un disco dei Morphine, Cure for Pain. Ecco, grande album, grande gruppo di Morphine. Purtroppo, sì, purtroppo è deceduto. È deceduto il leader, il chitarrista più importante, il personaggio fulcro. Grande album, grande, grande gruppo. Grande gruppo, a me ha segnato molto tosto. Negli anni 90. Sì, perché... un bel suono tosto. Sì, ma anche come atmosfera, sì. E anche come testi. Esattamente, molto perché bravo. Perché erano molto ermetici, ma allo stesso tempo... Non sapevano suonare, sapevano anche dire le sì. cose. Avevano anche una certa età quando ha avuto sì. successo, certo. soprattutto lui. Però è un grande gruppo che consiglio, che io non l'ho. Sì, non un po', tra parentesi, facciamo una parentesi così veloce. Tutti i suoi dischi sono stati ristampati e in linea economica si possono trovare, quindi a prezzi agevoli, sì, sì. quindi si possono trovare. Quindi è giusto di ascoltarli e di sentirli, è un gruppo straordinario. Io ho scelto Cure for Pain. Perfetto. Però molto bello anche il primo disco, che forse è ancora più particolare. Certo. E se no anche... come si chiama? Lake Swimming. Sì, beh, quindi... Comunque direi tutte perché sono tutte tutta la produzione di Morphine. Forse l'ultimo è quello un po' più dark, che sì, è... esattamente. Quello con la copertina sì, del fiore, non vero. Ricordo il titolo, Night, sì. mi sembra. Adesso non ricordo anche io, però quelli là, abbiamo parlato di Morphine. Ok, poi siccome la musica è anche puro divertimento, veramente certo. ballabile, ho scelto The Twist di Chubby Checker. Ah, parliamo degli anni 50, allora, sì, torniamo esatto. indietro, torniamo indietro. Però per farne uno, perché sono praticamente molto affezionato, perché sia da piccolo ballavo sì, tantissimo si ballava, e tuttora ballo ancora. Puro rock and roll. Poi ho scelto, sempre degli anni 90, Super Unknown dei Soundgarden. È un altro gruppo tosto, tosto nel senso sì. positivo, un grande gruppo. Veramente notevole. Un gruppo che, devo dire, sia dagli anni 80 si è evoluto tantissimo, certo. partito dal metal, sì. passando ecco, per un suono proprio loro, perché c'è chi dice che è grunge, c'è chi dice che... Secondo è me sono loro. I Soundgarden. Sono Soundgarden, non c'è un'etichetta, sono loro e basta. Io sono affezionato. Poi Tears for Fears. E come mai passiamo ai Tears for Fears? Perché... è un bel salto. Però è pop. Assolutamente sì, però io pop. Trovo che in tutti questi gruppi, cambiando le sonorità, cambiando... Vediamo se Michele, Tears for Fears li ha sicuramente. L'approccio. Dimmi. Ma voglio... Cioè, Michele, bravo. Allora, credo, non... cioè, sicuramente. Dimmi allora. Dimmi. No, soprattutto anche per gli arrangiamenti. Sì. C'è una canzone che adesso non ho in mente, però è famosissima. Sì, adesso Michele la pesca. Sono sicuro che la pesca, perché Tears for Fears, quello che vuoi. Comunque sono bravissimi, vabbè, sia per i cori, ma sia soprattutto per gli arrangiamenti e l'atmosfera. Sì, erano molto bravi. E io mi rifaccio avevano molto. Hanno lasciato un modo di interpretare, di costruire determinate sonorità, secondo Assolutamente. Me. Assolutamente. E poi, visto che io... Ci siamo, quasi. Mio padre, siamo all'ultimo, allora per un po'... Che non vuol dire l'ultimo in ordine, cioè sì, minore. No, non meno importante, esatto. Siccome ho un padre che mi ha introdotto alla musica, che suona la batteria, tuttora suona con gli amici, mi ha aperto il mondo degli anni 60. Proprio. Bene, cosa? Quindi io, per spiazzare un po' queste scelte obbligate, scelgo una compilation del beat italiano. Ah, bene, bene. Un po' di tutto. Quindi allora. Citando i Fuggiaschi, citando le Orme, certo. citando i Giganti, per nome, e chiaramente l'Equipe 84. Che hanno una... Cioè, l'Equipe 84 è citata un po' particolarmente. Perché? Sì. Perché amate molto questa band. Voi siete giovani, però l'Equipe era una band fondamentale. Maurizio Vandelli all'epoca, pezzi dell'Equipe che venivano incisi. Perché venivano incisi? Perché Maurizio Vandelli, come sua missione, sentiva Radio Luxemburg, Radio Lussemburgo. Cioè i dischi arrivavano molto in ritardo in Italia. Lui sentiva Radio Luxemburg, prendeva i pezzi suoi. E traduceva, e faceva le cover. Sapete, una volta c'erano le cover degli anni 60, c'erano i Dig Dig che copiavano pedissequamente, cioè la cartina di tornasole. Esatto. Mentre l'Equipe un po' modificavano. No, come no, sono dei pezzi che secondo me... Sì, non vorrei dire una sciocchezza, ma quasi sono anche più belli in italiano. Sarà che è la nostra lingua e forse... Tuttavia la città, che era un pezzo di Move fatto sì. dall'Equipe. Fatto in Move è un grande pezzo, però fatto Move, quindi Jeff Lynne e company. Esatto. Fatto dall'Equipe 84, soprattutto fatto dall'intelligenza sonora di Vandelli, che ma... arrangiava in modo particolare. Il sita l'ha introdotto Vandelli nel beat italiano, è stato sì. lui, quindi... E anche i colori. Lui avevano la loro Rolls gialla come i Beatles, anche loro giravano con la loro Rolls gialla, avevano i negozi anche loro a Modena. C'è niente a dire, era così. Benissimo, dimmi. No, quindi tuo papà ti ha dato. Sì, no, devo ringraziarlo perché tuttora vivo ancora di ricordi, vivo ancora con questa nostalgia un po' di quei gruppi che. Sperimentavano molto. L'Equipe e i Nomadi sono gli sperimentatori. I Nomadi prendevano le cover, ma non facevano le cover pedissequamente. Nights in White Satin dei Moody Blues, fatta dai Nomadi, sì. O se no un pezzo poco famoso dal primo album di Elton John, fatto dai Nomadi, era un po' diverso, perché Augusto aveva quella capacità, e gli altri, Beppe e Carletti, avevano quella capacità di ricreare non pedissequamente un pezzo. C'erano chi prendeva il pezzo, come Dick Dick, per carità, niente da dire, ma prendeva il pezzo e lo... California Dreaming. Sì. Lo copiavano, lo traducevano e basta, non davano qualche spunto in più, mentre i Nomadi e l'Equipe no, ridavano un'anima al pezzo, come, sì, anche come atmosfera. Anche per esempio, parlando dell'Equipe, tutta mia la città, riesci a vedere, a immaginarti la canzone proprio della passeggiata notturna con la nebbia, esatto, situazioni. Tell Me dei Rolli all'inizio di carriera, sì. quel che ti ho dato, Tell Me dei Rolli, fatta dall'Equipe. Bellissimo. Aveva un certo senso. E anche il pezzo dei Beach Boys, certo. Quello lento che ha rifatto Ah sì, adesso me lo ricordo il titolo. Vabbè, anche se asciughi le tue lacrime si vede che... Esatto, sì. Ma non è dei Beach Boys però quello là. Beach Boys, sì sì, rifatto però. Ha rifatto dalle ragione, sì, vero. Quindi l'Equipe aveva fatto tante cose interessanti. Sei già di un altro, esattamente, sei già di un altro. Ok, benissimo. Allora, infatti, siete pronti allora per fare qualcosa? Sì, infatti, dimmi. Sì, giusto per essere in tema. Tutto fatto, abbiamo fatto apposta, fatto apposta per arrivare a quello. Adesso parliamo un momento del pezzo che volete interpretare adesso. Vorremmo fare Nel cuore e nell'anima. Ecco, c'è una piccola particolarità su questo pezzo, non so se lo sapete. Questo pezzo era stato scritto per i Dick Dick. Da Mogol e Battisti. Dopo, all'ultimo momento... Mogol ha deciso no. Lo offriamo all'Equipe 84. Meglio. Era meglio perché l'arrangiamento che ne ha fatto Vandelli è stato un capolavoro assoluto. Dopo i Dick Dick l'hanno interpretato il pezzo e anche Battisti l'ha interpretato Nel cuore e nell'anima. Però l'arrangiamento che ne fa l'Equipe 84, anche se successo non è un successo come 29 settembre che arriva al numero 1, arrivò solo al numero 4 in classifica. Però è un arrangiamento straordinario. Sentiamo adesso Nel cuore e nell'anima nella versione di quattro ragazzi di Verona. Chi erano? Cinque ragazzi di Verona. E il quattro è arrivato dopo, scusate. Cinque ragazzi di Verona, mentre loro erano quattro ragazzi di Modena, ma non vuol dire niente. Sempre ragazzi. Sempre ragazzi erano. Ok. Blu Radio Veneto Rock. Nel mio cuore, nell'anima, c'è un prato verde che mai nessuno ha mai calpestato, nessuno se tu vorrai conoscerlo. Cammina piano perché nel tuo silenzio anche un sorriso può fare rumore. Nel mio cuore, nell'anima, tra fili d'erba vedrai ombre lontane di gente sola che per un attimo è stata qui e che ora amo perché se n'è andata via per lasciare un posto a te, per lasciare un posto a te, per lasciare un posto a te, per lasciare un posto a te. Nel mio cuore, nell'anima, tra fili d'erba vedrai ombre lontane di gente sola che per un attimo è stata qui e che ora amo perché se n'è andata via per lasciare un posto a te, per lasciare un posto a te, per lasciare un posto a te. Nell'anima, Rock Wave, l'onda del rock. C'è niente da fare adesso, ho deciso, lo so, la regista mia, adesso mi ammazzerà sicuramente, no, mettiti le cuffie e rifate la parte finale nel cuore e nell'anima, vai, vai, vai, forza, vai, vai. Ma c'è l'ultimo ritornello? Sì, l'ultimo ritornello, vai, vai. One, two. Qui e ora amo perché se n'è andata via, per lasciare un posto a te, per lasciare un posto a te, per lasciare un posto a te. Sì, adesso abbiamo finito, veramente. Non c'è la reprise. Paganini non ripete, però purtroppo ho fatto ripetere. A me piaceva particolarmente. Sono legato moltissimo ai pezzi dell'Equipe 84. E poi Dick Dick non erano stati molto contenti della decisione di Mogol. Poi ci sono riappacificati, però è rimasto questo discorso qua. Quindi Equipe 84 nel cuore e nell'anima. Un pezzo meraviglioso, arrangiato, diretto, creato, costruito da Vandelli, che produsse un sacco di gente. Vandelli produsse un sacco di gruppi, era un produttore non da poco, però era un grande, chiaramente. E grazie a Mogol Battisti Mogol, una coppiata vincente. Sì, come... 29 settembre, chi non ricorda 29 settembre? È sempre di Mogol Battisti. Sì. C'è poco da fare. Non so se sapete l'Equipe 80, aveva fatto anche l'inno del Modena. Sì, no. Questo mi mancava. Ci mancava. Sì. L'inno del Modena, e c'è una versione di 29 settembre in inglese e una versione anche in giapponese. Io so quella in inglese, però. L'inno del Modena, che erano tifosi del Modena, e ripeto, avevano la Rolls Royce gialla, avevano i negozi come i Beatles a Modena. C'è poco da fare, così era. Tanto so vestivano che... di un po' particolare, vestivano alla Beatles praticamente anche loro. Dimmi. No, credo che il batterista... Alfio Cantarella, sì. Esatto. Organizzi qualche volta, non so se organizza attualmente, il Verona Beat a Verona, che è un evento che si ripete, spero che si evolverà anche, colgo l'occasione, ecco, per la radio, di aprire, ecco, perché normalmente invitano sempre gruppi giustamente storici degli anni 60, però... Se n'è andato uno, purtroppo, dell'Equipe, ecco. Vi ricordate? Il bassista. Il bassista. No, coglievo l'occasione per invitare anche l'organizzazione del Verona Beat, certo, di Verona, famoso, invitare Verona magari Beat, qualche gruppo, come ha fatto magari l'anno scorso, di giovani, che però suonano, che hanno un legame comunque con gli anni 60, per ringiovanire un po' questo evento, che anche per mantenerlo... Sì, perché non fanno le cover anche dell'Equipe, invece di fare cover sei Ligabue e Vasco? Non lo so, io. Ecco, voi fate le cover dell'Equipe... pezzo favoloso, fate le cover di Battisti, fatta dall'Equipe, ma sembra un pezzo di Battisti, Mogol Battisti, 69, quindi un anno storico. Quanti pezzi ha scritto Battisti? Troppi. Per tanti poi bar. È troppi. Una scoperta continua, ogni tanto sì. Si scoprono, cioè nel senso noi che magari siamo più giovani, perché non tutti, ogni tanto... A proprio dell'Equipe, perché non fate Pomeriggio Ore 6, dei Bee Gees? Bellissimo. È un altro pezzo storico dell'Equipe, ne hanno scritti tanti, ne hanno scritto tante, hanno rifatto tante cover, ma le hanno fatto bene. Un angelo blu. E qui è di Blackberry Way, siamo dei Move, quindi il gruppo è inglese, anche quello è un pezzo inglese. Fa parte del... io sono contento che una band giovane, giovanissima come la vostra, riprenda un pezzo dell'Equipe di molti anni fa, così in versione vostra particolare. È una cosa contenti noi di poterla cantare. È una cosa positivissima, no, se mi è consentita l'espressione positivissima, non esiste, però lo dico lo stesso. 23-26, diretta Rock Wave, altervista.org, Maurizio Calzavara al microfono, Michele Tosoni in regia, se n'è andato Roberto Baldi definitivamente, lo riprenderemo mercoledì prossimo, però ha organizzato come sempre le telecamere. Dopo questa bella pausa, non è una pausa, questo volo pindarico indietro negli anni 60, che volo pindarico mi date adesso, nel 2009 praticamente? Oh, adesso non possiamo che darle. No, che darle. Oh, che darti. Che darti. Vabbè, sono vecchio, Michele me lo ripete sempre, c'è poco da fare. Allora, non possiamo che darvi, così vado sul volo, sì, che sono bene, senza tutti, problemi, esatto. Bene. A proposito di voli pindarici, passiamo a una canzone molto aerea. Bene. Che sarebbe Nubi Cuculia. che è la traccia numero 3, però adesso la fate dal vivo, esatto, in acustica. In acustico, sì. Con la finalmente la tromba. Finalmente la tromba, è una cosa bellissima, che è la prima traccia con la tromba. Mi ricordo, esatto, che aveva scritto. Suonerà un po' piano perché siamo in acustico, ma è bene, sempre la tromba. Beh, bene. Certo. Chiaramente. Ok. Blu Radio Veneto Rock. Lassù, iperurani assoluti, motori immobili. Laggiù, monadi senza coscienza e superuomini. Qui a nubi cuculia, il tempo non passa mai. Così uomini armati e ideali diventano secoli. Così ogni occupate amore ricorda l'eternità. Qui a nubi cuculia, il tempo non passa mai. Non mai. Qui a nubi cuculia, il tempo non passa mai. Non mai. E noi, con sguardi attenti, sedati, scrutiamo la realtà. E qui, senza pretese o difese, scorriamo la verità. Qui a nubi cuculia, il tempo non passa mai. Non mai. Qui a nubi cuculia, il tempo non passa mai. Non mai. L'onda del rock. Allora, ladies and gentlemen, Carlotta, Federica, Paolo, Tobia e Arrigo. Perfetto. Clan Blu, questo pezzo che piace molto ai bambini, vero Carlotta? Dicevi? Sì, anche ai turisti. Anche i turisti, come sì, mai sì. I turisti? Ma perché un giorno ci eravamo seduti, appunto, eravamo in Piazza Dante a Verona. sedute proprio sotto il sotto Dante, la statua. E mentre appunto cantavamo allegramente la nostra Nubi Cuculia, a un certo punto, ma anche tra l'altro in modo, cioè non c'era tanta persona, abbiamo suonato anche un po' per noi stesse, diciamo, per divertirci. A un certo punto abbiamo finito di solo in due, però non c'erano gli altri. Sì, eravamo noi due. Baskers al femminile. Esatto. Senti. Abbiamo finito di cantare questa canzone e vabbè, insomma, c'era qualche bambino che ci ha applaudito come sempre, perché quelli non ci abbandonano mai. E poi a un certo punto, siccome appunto la statua è circolare, no? E a un certo punto abbiamo sentito due voci maschili che cantavano lassù, e ci siamo girati un attimo, c'erano questi due ragazzi tedeschi che probabilmente non sapevano una parola di italiano, perché dopo abbiamo provato un po' a parlare, però lassù l'avevano capito, era già entrato quel in momento testa. L'era già entrato sì, in testa, sì, quindi a quanto pare affascina potere del pop, esattamente. E la entrata bella di Paolo, com'è stata entrata la tromba in questo pezzo? Beh, niente, un giorno mi avevano chiamato appunto per suonare qualcosa, qualche piccolo intervento nella seconda strofa appunto, e io ho fatto qualcosa a carattere improvvisativo che poi di esecuzione in esecuzione si è delineata. Sì, sì, si è allargato, si è delineata. Sì, diventa praticamente sempre la stessa cosa. E noi ne siamo rimasti affascinati anche perché appunto diciamo che è proprio un'ascesa nella seconda strofa, quella della tromba è proprio quella, l'ascesa che ci porta verso le nuvole, diciamo, quindi ci sta perfettamente, ci sta perfettamente. Esatto. E da lì appunto abbiamo deciso di seduta stante, quello sarà il quinto componente della esatto. band, infatti ce lo siamo conquistati, esatto, mi pare giusto. E quindi ci saranno possibilità di scrivere anche i pezzi per poter usufruire della tromba nel proseguo della carriera vostra. Infatti, sì, non ce ne sono altre anche canzoni, degli altri. Infatti. State arrangiando dei pezzi nuovi con la tromba. Sì, esatto. Anzi, magari gliene faremo anche. Te ne faremo. Sì. Lo so che sono vetusta come età, però. Scusa, è un automatismo, io non ci posso fare niente. No, non c'è niente di male. Ma non è l'età, è proprio il fatto, cioè la non conoscenza, diciamo, che mi porta ad essere rispettosa. Diciamo un gruppo garbato. Sì. Diciamo una cosa importante. Il vostro sito, vai, il MySpace, ecco, MySpace, www.myspace.com/claimblue. Cosa si può trovare dentro? Ci si può trovare intanto tante belle foto, ecco, quello è importante. Sì, i nostri pezzi, il nostro fotografo di fiducia, Filippo Brugnoli. Benissimo, lo diciamo, Filippo Brugnoli, certo. Poi possiamo trovare appunto i nostri pezzi, le date, possiamo trovare anche tutte le recensioni che appunto ce ne sono più di una, sì, sì, che stiamo ricevendo, certo. Infatti siamo molto soddisfatti, molto contenti, speriamo che continuino così. Ho letto che il vostro quello che ha arrangiato i pezzi è veniva qua con i Canadians e sì, con i Home arriveranno fra poco, arriveranno gli Home, che sono di Verona anche quelli, sì. Manderanno il disco nuovo e fra il prossimo mese verranno a suonare qua. I Canadians sono bravissimi, sono venuti a suonare due volte qua, prima col disco precedente e col disco nuovo l'anno scorso, mi pare. E Luca fa parte. Luca Dalcone, fa parte di Canadians, che è un gruppo. No, Luca Dalcone. Cioè, è il produttore di Canadians. Sì, l'arrangiatore, il fonico praticamente. Sì, era un po' lontano. Puoi ripetere allora. No, Luca Dalcone, sì, no, il fonico di studio di tutti questi gruppi di Verona. E tutta Verona, la Verona musicale dovrebbe ringraziare, cioè, Luca. Sei molto bravo. Quindi ha partecipato anche al vostro disco. Per pubblicizzare anche dimmi. Il suo studio, che lui è Sottonnare, è uno studio di registrazione suo. E proprio recentemente, credo quest'estate, ha aperto questo studio. Penso che sia uno dei più grandi nel nord Italia, perché è sempre a Verona, o perlomeno vicino a Verona, in Borgo Roma, vicino a Borgo Roma. Sì. Purtroppo, Luca, scusami, non mi ricordo l'indirizzo esatto, però ha la possibilità addirittura di registrare delle orchestre, nel senso che però, ha quindi una molto grande. Un'area di incisione molto molto grande, con delle apparecchiature nuove. Lui ha creduto molto a questo, crede molto a questo progetto, infatti ha investito anche non solo, diciamo, sforzo, ma anche in denaro. Quindi economico, insomma. Esatto, noi cerchiamo di sostenerlo perché è veramente in gamba come ragazzo. Dove possiamo trovare il vostro disco? Nei negozi oppure ai concerti? È stato distribuito come? Concerti e poi vabbè, insomma, si può ordinare sul sito, chiedendo sito. A noi o all'etichetta. Che riportiamo l'etichetta, come si chiama? L'etichetta è la Vagimal Records. Records di un paese di Vagimal. Sì, un paese vicino a Verona, nei Monti Lessini, bisogna dirlo, mi pare giusto. Monti Lessini. Sì. Frazione di Sant'Anna del Faedo. Perfetto, quindi in un'etichetta indie, possiamo dirla indie? Veramente. Cimbro indie. Sì, Cimbro quasi indie. Qualche altro catalogo, cioè qualche altro gruppo nel catalogo? No, perché è appena iniziato tutto. Siete voi praticamente. E noi abbiamo appena, abbiamo dato, avete dato la stura a tutto quanto. Speriamo di portare fortuna. Io spero di sì. Il disco è buono, ripeto, è interessante, a me, secondo il mio parere, quindi grazie. È ben fatto, ben costruito, arrangiato bene, e si dà proprio dalla sensazione di piacevolezza, di entusiasmo vostro, è vero che è così? Sì. Sì, bene, ho detto tutto. No, cioè, sei d'accordo, Michele? No, non sei molto d'accordo. Ok, 23:37. Io proporrei, visto che abbiamo tanti pezzi, avete detto che avete abbastanza pezzi da suonare. Sì, sì. Sì, sì. Ne suoniamo un altro. Cosa avete deciso di suonare adesso? Adesso il nostro suona la tromba, si mette la tastiera. Sì, sì. Tromba. Ma la tromba, suona la tromba. Okay, bene, bene, ancora la tromba. Abbiamo deciso di continuare con la tromba. Beh sì, nella prossima canzone che presenta adesso Carlotta ci sarà il suono della tromba un po' storpiato, possiamo dire, della sordina, che ha come effetto anche il fatto di cos'è suonare... la sordina praticamente? La sordina è praticamente un tappo. Ha un tappo? È una sorta di pera, cava, sì, di plastica o di metallo che si infila nella campana, nella parte terminale della l'acqua tromba. L'acqua fa bene, non succede niente, si fa passare l'acqua, ma dimmi. Esatto, e serve a fare un effetto, un tipo di suono un po' diverso. E suona anche per piano, il suono viene attutito. Ah, benissimo. Beh, sentirete. Okay. Sì, ok, ok. Allora, fra poco suoneremo con la tromba, ok? Blu Radio Veneto Rock. Voglio più chiaro, disegno il tuo naso e quell'ombra sul viso. C'è un segno di fianco al tuo occhio sinistro. È quel sentimento che ormai riconosco, avendo capito che il disegno è finito, ma ancora non basta per averti qui a fianco. C'è solo un segnale che segna, che nella tua ombra riconosco il tepore. Occhi, mani, fianchi e la mia matita scivola, timida, senza correzioni né valutazioni, timida, precipita. Occhi, mani, fianchi e la mia matita scivola, timida, senza correzioni né valutazioni, timida, precipita. Tue mani di foglia, le braccia di linfa e i tuoi polsi nodosi. C'è solo un segnale, che il segno è reale, che nella tua ombra riconosco il tepore. Occhi, mani, fianchi e la mia matita scivola, ti imita, senza correzioni né valutazioni, ti imita, precipita. Occhi, mani, fianchi e la mia matita scivola, ti imita, correzioni né valutazioni, timida, precipita. Avendo viaggiato su solchi finiti, lasciati cadere mentre ti allontanavi. Occhi, mani, fianchi e la mia matita scivola, ti imita, senza correzioni né valutazioni, ti imita, precipita. Occhi, mani, fianchi e la mia matita scivola, ti imita, senza correzioni né valutazioni, ti imita, precipita. Rockwave, l'onda del rock. Ok, adesso abbiamo deciso di mostrare alla telecamera la tromba, vero Paolo? Vogliamo mostrare la tromba? Ecco. Qua. Questa è la tromba. La telecamera si vede? Sì, si vede. Questa è la tromba con i suoi soli tre tasti. E questa è la sordina che ho usato in questo brano. Si infila dentro. E si suona così. E suono nella sordina. La sordina, perfetto. Ok. Benissimo, questo era un pezzo inedito o edito? No. Inedito. No, new entry anche questo. Il titolo non l'abbiamo detto perché abbiamo deciso di suonarlo prima di dire il titolo. Come si intitola? Allora? Avendone scritto. Bello, molto, molto, molto, non dico folk, però delicato, molto delicato. Leggermente più delicato degli altri, secondo il mio parere. Non so se sei d'accordo, Carlotta. Sì. I testi li scrivi tu te? Sì, sì. Con qualche aiuto degli altri o solo te? No, i testi li scrivo io. L'arrangiamento musicale tutti quanti. Sì, chiaramente. Esatto. E come nasce un pezzo dei Clay in Blue? Nasce appunto... Con molte divisioni, molte lotte oppure no? No, assolutamente. Nessuna lotta. Nessuna con molte lotta. Risate, anzi, direi. Molte risate. Sì, sì. Importante, il ridere fa bene, secondo me. Probabilmente ridendo il pezzo viene meglio, sì, o no? Anche perché comunque ci divertiamo molto, prima di tutto. E poi è bello perché ognuno appunto porta le sue idee e c'è molta sintonia, secondo me. È un gioco. Com'è la prassi? La Carlotta scrive un testo che... Io porto il testo e gli accordi. E la canzone, gli accordi. E poi Federica, Paolo... Arrigo e Tobia, scusate, due ragazze me le ricordo subito. Così, stranamente. E come va allora il discorso? Prendi questo testo, lo sviluppate con qualche accordo. Esatto, ognuno ci inserisce qualcosa favorendo la natura dello strumento. Sì. Magari la tromba fa qualcosa di tipo squillo. Sì, non so. Da un po' di... Sì, esatto. E la batteria cosa fa la batteria? Io cerco di seguire un po' la sensazione della canzone, che poi Carlotta a volte ci illustra, a volte suonando... Ermetico o illustra? È De Gregoriana oppure no? No, non è De Gregoriana. No, benissimo. Diciamo che ogni canzone è come se fosse un mondo a sé, perché ogni canzone comunque ha un'atmosfera ben intuibile, insomma. Quindi Carlotta fa il testo, Federica prende la viola, che inserimento ha nel pezzo praticamente? Ma quello più semplice, più immediato di solito è quello melodico, sostituisce un po' una seconda voce, come giusto. E altrimenti in certi pezzi abbiamo proprio deciso di usare gli strumenti, non solo la viola, anche gli altri, di usare gli strumenti in modo diverso. Cioè non usare per esempio sempre la viola in modo melodico, sempre la tromba in riff un po' più ritmici, ma cercare proprio di anche di sfruttare gli strumenti in modi un po' originali. Il nostro Jimi Hendrix, cosa fa il nostro Jimi Hendrix? Ma intanto Jimi Hendrix c'aveva il Fender Stratocaster anche lui. Sì, no, io una Jaguar. Va bene, una Jaguar. Vabbè, aveva la chitarra. No, vabbè, comunque No, io cerco di... Siccome Carlotta di solito fa appunto l'accompagnamento con la chitarra acustica, con gli accordi, insomma, diciamo, base, io cerco invece di condire con arpeggi o una ritmica un po' perché più... È giusto che gli ascoltatori devono sapere come nasce un pezzo, non è semplice. No, certo. È difficile. Beh, ci stiamo dietro molto, insomma. State molto. La parte quasi più divertente, Dopo il finale è bello perché finalmente... È bello registrare e suonare, però... Per andare al finale ci vuole un po' di tempo, di sensazioni, di emozioni. Assolutamente, l'emozione comunque penso che sia, penso a nome di tutti, un po' l'obiettivo, no? Cercare l'emozione della canzone. Esattamente. E cosa vuol dire suonare dal vivo? Adesso stasera abbiamo fatto un acustico bello, secondo me, divertente. Ma suonare dal vivo cosa vuol dire? Cosa significa per voi? Voi cinque? Vuol dire poter dare questa emozione non solo appunto... attraverso la nostra musica, ma anche attraverso proprio più direttamente condividerla con più gente. Esatto. La condivisione assoluta. Anzi, avere anche il ritorno delle persone è molto importante. Certo, perché il progetto Clean Blue probabilmente è nato anche per quello, per condividere con gli altri musicalmente le vostre sensazioni, le vostre emozioni. 23:46, abbiamo ancora circa un quarto d'ora, però la musica va avanti. Suoniamo un altro pezzo, se dite. Certo. Cosa avete deciso di suonare adesso? Adesso suoneremo una cartella senza titolo. Benissimo, una cartella senza titolo. È la nostra ultima arrivata. È la vostra new entry assoluta questa. Assoluta. Qua. Sì. inventata da poco, costruita sì, da sì. poco. Sì, sì, a dire è proprio l'ultima, l'ultimo fresca pezzo. Fresca. Fresca fresca, c'è ok. C'è da dire che comunque abbiamo fatto anche un arrangiamento per questa occasione. Bene, qui. Mi pare giusto. E per c'è un buon rock. Anche una, cioè, diciamo, uno sforzo notevole anche per la però batteria. Però qui avete fatto un arrangiamento diverso. Per mantenere anche un po' i suoni, ecco, anche diciamo all'inizio, per mantenere i suoni che poi ci sono nella canzone, poi suonata definitivamente. Certo. Quindi c'è da dire che anche questo è stato bello, un esperimento interessante. Bene. Sì. Adesso la sentiamo allora. Blu Radio Veneto Rock. La mia mente col tuo sguardo intelligente, nel mio animo sopito nasce un albero fiorito. Quando accordi la mia mente col tuo abbraccio disarmante, il mio canto intorpidito rendi armonico e pulito il fiammeggiante tuo cervello. Mi trasmette un ritornello ed ho voglia di cantarlo senza strofe, solo quello. Sei una carta senza titolo nel mio PC. Sei una cartella senza titolo nel mio PC. Sei una cartella senza titolo nel mio PC. Sei una cartella senza titolo nel mio PC. Il mio umorismo un po' sbiadito e la mia tenda sa un segreto da quando il vento gliel'ha rivelato. Il fiammeggiante tuo cervello mi trasmette un ritornello ed ho voglia di cantarlo senza strofe, solo quello. Sei una cartella senza titolo nel mio PC. Sei una cartella senza titolo nel mio PC. Sei una cartella senza titolo nel mio PC. Una cartella senza titolo nel mio PC. Ok, ci siamo, 23.51, non ci siamo, siamo arrivati alle 23.51, abbiamo ancora qualche minuto. Una mia considerazione, all'inizio sembrava una canzone circense, in senso positivo del termine, poi si è sviluppata soprattutto per l'organo che tu hai. Bene. Ricordavo un po' il circo ha delle cose meravigliose e poi chiaramente si è sviluppata molto diversamente, però quell'inizio circense. Perché infatti all'inizio abbiamo deciso di giocare un po' viola e organo. Esattamente. Esatto. Che sono degli strumenti che si usano, soprattutto l'organo si usa spesso nel circo, chiaramente. È molto divertente, molto carina, accattivante, è la new entry assoluta questa qua. Assoluta. Io ho una sensazione, c'è qualche cambiamento, qualche strada da percorrere un po' diversa rispetto a questi primi sei pezzi, oppure no? È solo una variazione sempre nell'ambito. Ma secondo me l'assetto rimane sempre quello comunque. Beh, però cerchiamo comunque di cambiare. Cerchiamo ovviamente di diventare. Di aumentare, di allargare gli orizzonti. Cioè, adesso dopo tutti questi anni, dopo tutte queste prove, riusciamo a capire cos'è che dà forza a una canzone. Quindi certo. Siamo sempre verso la novità. Anche per un noi. Assetto. Direi che è un altro colore della tavolozza. Ecco, bravo, hai detto giusto. Un altro secondo colore della tavolozza. Quanti colori hanno i Kingblade? Blu. Tanti. Tanti? Sono tante sfumature di blu. Ma è bello, bello questo. Giusto che ci sono tanti colori. Anche la copertina vostra. Chi l'ha fatta quella copertina meravigliosa? Tutti insieme. Ah, siete tutti quanti. Quella è stata un'idea, diciamo, di autoritrarci proprio. Con una tecnica che... diciamo che io dipingo, ecco, anche l'introduco. Okay. Batterista che dipinge. Dipingo, esatto, e quindi abbiamo pensato in modo secondo me vincente, ecco, di autoritarci su questo pannello di legno che poi è stato riprodotto poi chiaramente dalla stampa. Sì. Però l'effetto è questo qui. Proprio di un pannello di legno tutto, diciamo, irregolare, per dare proprio del movimento, giocando proprio sui colori che sono comunque sempre preponderanti, il blu e il viola anche, certo, che fa parte, però il blu. Ecco, dimmi. Se posso fare una osservazione. Ma poi, esattamente? Appunto, siccome il nostro, diciamo, ispiratore, nel senso, nel nome è appunto Klein, è un pittore, sì, tra, certo, l'altro, quindi a parte questo. E poi appunto Klein diceva che il blu è il colore... dell'invisibile che diventa visibile. Per allora, dimmi. Anche noi abbiamo voluto, diciamo, materializzarci attraverso i nostri dipinti. Per quello hai scelto blu come disco di Joni Mitchell. Esatto. La carriera. E siamo su Radio Blu Veneto. Certo, siamo su Radio Blu Veneto. 23:54. Secondo me abbiamo tempo di fare due pezzi ancora. Anzi, facciamo subito uno. Cosa ci proponete? Potremmo fare un'altra bella cover. Sì, dimmi. Dei Velvet Underground. Mi devo alzare in piedi allora. dal mitico primo album di Velvet Underground. Esatto. And Nico, praticamente. And Nico. Benissimo. Il pezzo? Stephanie Says. Ah, famosissima. Carlotta. Blu Radio Veneto Rock. Stephanie says that she wants to know why she's giving half her life to people she hates now. Stephanie says, when answered the phone, what country shall I say is calling from across the world? But she's not afraid to die. People all call her Alaska. Between words, so the people ask her, 'cause it's all in her mind. It's all in her mind. Stephanie says that she wants to know why is though she's the door, she can't be the room. Stephanie says, but doesn't hang up the phone. What seashell she is calling from across the world? But she's not afraid to die. People all call her Alaska. pizzo in her mind. They're asking, is it good or bad? It's such a nice feeling. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska. It's so, so, so cold in Alaska. It's so cold in Alaska. L'onda del rock. Lo diceva il microfono spenti. Federica non era John Cale, ma va bene lo stesso. Va bene, va bene. Pezzo meraviglioso, mi ricordava molti anni fa. Mi sono emozionato che i Velvet li ho sempre amati, soprattutto i primi Velvet. E abbiamo finito, ragazzi, però è stata una cavalcata meravigliosa. Ripeto, questo modo di fare, musicalmente parlando, mi ha soddisfatto pienamente. Ringrazio che mi avete portato in un universo. I Velvet, avete citato i Velvet, avete citato il Keep 84 e avete citato la vostra musica, questo è importante. Avete praticamente ripercorso i vostri sei pezzi, non tutti, però avete fatto delle new entry, e questo mi pare giusto. È lo spirito di Rockwave. Noi ringraziamo anche proprio per la ricerca, perché dovrebbe essersi più radio come questa. Ringraziamo anche il regista, che è stato lui, se c'era Michele, grazie. Che portava grazie. Avanti il discorso, vero Michele? Grazie Michele anche grazie di accompagnarci con le canzoni. Traduceva i nostri dischi. Esattamente, è stata una bella esperienza. Due ore anche passate bene, anche per voi, sì, spero. Sì, sicuramente. Benissimo, allora adesso termineremo con un altro pezzo per oltrepassare la mezzanotte. Io ringrazio la band, ringrazio Michele Tosoni in regia, ringrazio Roberto Baldi che ha collaborato grazie. Alla stesura delle telecamere. La prossima settimana ci sarà un'altra band di Bergamo, gli Alex Nipper, che presenteranno delle cover dei primi Pink Floyd. Qui dico Syd Barrett. Buonanotte a tutti, con cosa ci salutate? Chiudiamo con il pezzo che chiude anche l'album, che è Fertilizza Frasi. Benissimo, buonanotte a tutti. Buonanotte. Grazie all'ascolto. Blu Radio Veneto Rock. Sono sotto il sole, sento le parole, crescere lontano, con il mare piano. Sento le parole, stando sotto il sole, crescere lontano, con il mare piano. Sotto il sole sento le parole crescere lontano con il mare piano. Sarà un'insolazione, fertilizza frasi. Sarà un'insolazione, fertilizza frasi. L'onda del rock. È mezzanotte e un minuto.